precisato il K. Qua mi indica che sto uscendo con come watt, con 4 watt. 4 watt. Non c'è niente di trimmer, lascia perdere, sto dicendo, lo conosco perfettamente. quella, diciamo, la base che è molto bella, come base, come stazione base. L'altra che ho visto è, se mi piace un bene, ma vogliono 400 euro, si la troccano in luce. È passato, 100 franchi, è bello, A Perugia. Cosa tu? No, che vi siete sovramodulati, di Gianni ho copiato solamente l'ultimo passaggio. Beh, non lo sapevo. Aspetta, ti faccio sentire il Tamer più 2 con questa radio. Il Tamer più 2 era Tamer, perché tocca, ormai c'erano tutti lo stesso attacco, capito? Me li ha fatti Luigi tutti con lo stesso attacco. Il Tamer più 2 ti fa sentire che modulazione c'ha con questa radio. Molti più bassi dell'altra, rimane bella corposa. Beh, non sento, ma sono i migliori microfoni in assoluto, sono il Tamer più 2 e il Tamer più 3, perché sono microfoni di vecchia generazione che praticamente, perlomeno io ho avuto l'esperienza di farlo con la Fayette HB23 negli anni 80, forse anche prima, forse 78-79, se non mi ricordo, avevo la fredda che avevo detto con il Tamer più 2 da tavolo, ed era strepitosa la colorazione, mentre Carlino Carciofo un'anima usava uno Schuler autocostruito, praticamente la cassa era dello Schuler, però tutto il circuito di preamplificazione con la cassa era autocostruito, gli aveva fatto lo stesso la buona anima di Giuseppe Aquila, che Gianni sa di chi sto parlando. Però a volte ci scontravamo perché in quei tempi lì, insomma, le lotte erano molto, molto grandi, e quindi lui diceva sempre, come dite voi, la tua modulazione, la tua timbrica di voce, perché lo crepavo, come timbrica di modulazione era meglio il mio che il suo, fatto artigianalmente, praticamente con un circuito molto più elevato sicuramente il mio, una capsula allora in quei tempi ceramica di alto livello, quindi era così. Però il Tamer più 2 con i baracchini di quelli quadrati ha sempre dato, sia il più 2 che il più 3 hanno sempre dato delle ottime garanzie di modulazione. Allora, il coperchio l'ho tolto, però non è da toccare, perché di trimmer ce ne sono. Sicuramente, come tu dici, la regolazione dello Schmitter, la regolazione anche della cosa, della modulazione, però ce ne sono almeno 5. Sì, ma non c'era l'LC così chiamato, capito? In quel radiolino non esisteva l'LC, dovrebbe avere un trimmerino per quanto riguarda forse l'apertura del modulometro, quindi allo stesso tempo ti apre il livello di modulazione, quindi ti dà la possibilità di vedere il modulometro che spinge di più, quindi la percentuale di modulazione, però vai tu e pescano senza Antu, l'unica cosa da fare o lo porti a Pompugno se lo sa. No, te lo fa lui. Oppure ti informi, ti controlli se c'è lo schema su internet, se lo fanno ancora. Vabbè dai, vediamo, perché in effetti un qualcosa per pilotare non ce l'ho. Hola. Aspetta un attimo. Sto guardando. Hola. Ma guarda che come modulazione non è male, per essere il microfono male, a prescindere, ti ripeto, dalla prova che ho fatto io in precedenza, che la mia timbrica modulazione è sicuramente più alta della tua, quindi io ti ascolto bene, per me è 5, ti posso dare 5, è bella chiara, forte, si sente che è un microfono normale, ma allo stesso tempo con una resa superiore rispetto ad un'altra radio che non sia quadrata, tanto ho capito tutto qua. Ma no, l'unica cosa è provare a cambiare un attimino la capsula all'interno. No, quella è la sua capsula, tu vai benissimo, ti consiglio di non toccarlo perché poi vai a mettere magari un'impedenza diversa e vai a creare problemi sul modulatore. Quelle radio sono fatte così, soprattutto quadrate, non puoi pretendere di avere una grandissima modulazione con il microfono normale, però ti posso garantire che è molto chiara, molto bella rispetto alla radio che ho sentito con il microfono normale. È molto più aperta perché è quadrata, perché è a PLL, capito? Però in estremis dovresti mettere un microfono a tavolo e poi iniziare un MB più 4, un MB più 5. Ti consiglio più l'MB più 4 perché con le radio non hanno bisogno di tonalità, la tonalità è quella e la timbrica è quella, per avere un po' più di spinta. Ancora più in alto provare, visto che Gianni ce l'ha disponibile, provare il microfono di Gianni o se aspetti qualche giorno, io intanto lo contattare Massimiliano perché devo restituire questo lineare che è il suo, mi faccio dare il Saletta Plus che c'ha l'attacco a 4 e provi quello lì, capito? Se poi c'è da cambiare la posizione del filo non è un problema, la cambi, poi io me la rimetto a posto, ma giusto per capire che spinta può avere con il microfono a tavolo con la radio. Questa è uguale alla tua, ripeto, il 5024 della Inuit, la timbrica di modulazione con il microfono a tavolo è questa, non si scherza. Quella è ottima proprio, non vi dubbio, sembra sempre la tua solita modulazione, solitamente. Così dovrei avere una timbrica, più o meno, insomma, una timbrica, se non dico lo stesso livello di tonalità di voce, ma livello di tonalità microfonica, quindi di spinta, dovresti avere la stessa tonalità perché le radio sono uguali, a meno che quella non sia stata manomessa, ma come tonalità dovrebbe essere questa, perché anche io sto usando la stessa radio tua, diciamo, insomma, sono quasi uguali, ecco. Per quale caso Sandro? No, Anto, se sei tu non stai uscendo, Sandro, cosa stai usando? No, non sei tu, Anto, non stai uscendo. Capito, ma ci vediamo, sono a casa io, non ci sono problemi. Se ce la faccio stasera, se no a te che lo squillo, Positivo. Forse mi ha detto che era al telefono, non ho capito. 700 ohm con le radio a commutazione a relè, quindi quarciate, vanno bene quei tipi di microfono. In alternativa, siccome c'è una capsula da 600 ohm in saletta, potresti metterle quello. Diversamente altri tipi di capsule, microfoni con commutazione a relè quarzata non vanno assolutamente bene. Questo qua è più che altro, l'ho messo qua per arredamento, quindi per arredo anzi, quindi non è che ci sia problemi di doverlo utilizzare, però sai, abbinarlo bene comunque ogni tanto usarlo non è male. Sandro, ma perché non mi stai ascoltando? Sandro, ma non senti la front desk? Mamma mia. Allora, ho cambiato menestra, pensa a vedere se adesso mi senti saturo, compresso, adesso. Con un fischio sotto. Un attimo, qua io faccio corretti, sono tutti cordialmente, devo andare a prendere la marca a scuola che sta passando l'orario. Ci sentiamo dopo, là. Ciao Gianni, più tardi se coincide. Hai capito Sandro? C'è un fischiettino sotto. Ciao Gian. Non lo so questo. Allora, torniamo fuori. Vediamo fuori il fischiettino, ancora si sente? No, io sento un sotto quando parli, non so se è derivato dall'ascolto, ma che cosa, adesso la modulazione va bene. La modulazione è quella tua solita della radio, quella con l'eco, adesso va bene, l'altra non mi piace, è molto cupa, molto senza tonalità, così proprio allo sbaraglio. Anto, lo senti a Sandro? Caro di oggi, sì, adesso bene, prima adesso ho sentito io il fischio, l'innesco, una cosa strana. Allora, senz'altro è dovuto al discorso, diciamo, del palo ascolta, senz'altro. Vedi un po' adesso come va? Vedi adesso, cioè si sente questa S fischiata, cosa che prima io non ti sentivo. Sì, vabbè, è come stacco, me lo sento anche io, perché sono in cuffia, e me lo sento anche io sotto. Sono entrato, signore. Allora, adesso invece non lo sento.